Ad alta voce, Ermanna Montanari legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di 20 case di argilla e di canna selvatica costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche e enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome e per citarle bisognava indicarle col dito. Tutti gli anni, verso il mese di marzo, una famiglia di zingari cenciosi piantava la tenda vicino al villaggio e con grande frastuono di zufoli e tamburi faceva conoscere le nuove invenzioni. Prima portarono la calamita. Uno zingaro corpulento, con barba arruffata e mani di passero, che si presentò col nome di Melchiades, diede una truculenta manifestazione pubblica di quella che egli stesso chiamava l'ottava meraviglia dei savi alchimisti della Macedonia. Andò di casa in casa, trascinando due lingotti metallici, e tutti sbigottirono vedendo che i paioli, le padelle, le molle del focolare e i treppiedi cadevano dai loro posti e i legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle viti che cercavano di schiavarsi, e perfino gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano dove pure erano stati lungamente cercati e si trascinavano in turbolenta sbrancata dietro ai ferri magici di Melchiades. «Le cose hanno vita propria», proclamava lo zingaro con aspro accento. «Si tratta soltanto di risvegliargli l'anima». José Arcadio Buendía, la cui smisurata immaginazione andava sempre più lontano dell'ingegno della natura e ancora più in là del miracolo e della magia, pensò che era possibile servirsi di quella invenzione inutile per sviscerare l'oro della terra. Melchiades, che era un uomo onesto, lo prevenne. Per quello non serve. Ma a quel tempo José Arcadio Buendía non credeva nell'onestà degli zingari e così barattò il suo mulo e una partita di capri coi due lingotti calamitati. Ursula Iguaran, sua moglie, che faceva conto su quegli animali per rimpinguare il deteriorato patrimonio domestico, non riuscì a dissuaderlo. «Molto presto ci avanzerà tanto oro da lastricarne la casa», ribatté suo marito. Per parecchi mesi si ostinò a dimostrare la veracità delle sue congetture. Esplorò la regione a palmo, compreso il fondo del fiume, trascinando i due lingotti di ferro e recitando ad alta voce l'esorcismo di Melchiades. L'unica cosa che riuscì a dissotterrare fu un'armatura del XV secolo, con tutte le sue parti saldate con una crostaccia di ruggine, la cui cavità aveva la risonanza vacua d'un'enorme zucca piena di sassi. Quando José Arcadio Buendía e i suoi quattro uomini della spedizione riuscirono a disarticolare l'armatura, vi trovarono dentro uno scheletro calcificato che portava, appeso al collo, un reliquiario di rame con un ricciolo di donna. A marzo tornarono gli zingari. Questa volta traevano un cannocchiale e una lente, grande come un tamburo, che esibirono come l'ultima scoperta degli ebrei di Amsterdam. misero a sedere una zingara a un'estremità del villaggio e collocarono il cannocchiale sull'entrata della tenda. Per 5 reales la gente poteva chinarsi sul cannocchiale e vedere la zingara portata di mano. «La scienza ha eliminato le distanze», proclamava Melchiades. «Tra poco l'uomo potrà vedere quello che succede in qualsiasi luogo della terra senza muoversi da casa sua». In un mezzogiorno ardente fecero una mirabile dimostrazione con la lente gigantesca. Misero un mucchio d'erba secca in mezzo alla strada e le appiccarono il fuoco mediante la concentrazione dei raggi solari. José Arcadio Buendía, che ancora non era riuscito a consolarsi dell'insuccesso delle sue calamite, concepì l'idea di utilizzare quell'invenzione come arma di guerra. Melchiades, di nuovo, cercò di dissuaderlo, ma finì per accettare i 2 lingotti calamitati e 3 pezzi di denaro coloniale in cambio della lente. Ursula pianse di costernazione. Quel denaro faceva parte di un cofano di monete d'oro che suo padre aveva accumulato in tutta una vita di privazioni e che lei aveva seppellito sotto il letto in attesa di una buona occasione per investirle. José Arcadio Buendía non cercò nemmeno di consolarla, completamente assorto nei suoi esperimenti tattici con l'abnegazione di uno scienziato e perfino a rischio della propria vita. Mentre cercava di dimostrare gli effetti della lente sulla truppa nemica, espose se stesso alla concentrazione dei raggi solari e patì scottature che si trasformarono in ulcere e guarirono solo dopo parecchio tempo. Nonostante le proteste di sua moglie, messa in apprensione da un'invenzione così pericolosa, poco mancò non incendiasse la casa. Passava lunghe ore nella sua stanza, facendo calcoli sulle possibilità strategiche di quella sua arma inusitata, finché riuscì a comporre un manuale di una stupenda chiarezza didattica e di un irresistibile potere di convinzione. Lo spedì alle autorità, affidandolo a un messaggero che attraversò la sierra e che si perse tra pantani smisurati prima di riuscire a raggiungere una strada di allacciamento con le mule della posta. Nonostante il viaggio alla capitale fosse in quei tempi poco meno che impossibile, José Arcadio Buendía si riprometteva di intraprenderlo non appena il governo glielo avesse ordinato, allo scopo di dare dimostrazioni pratiche della sua invenzione alle autorità militari e addestrarle personalmente nelle arti complicate della guerra solare. Per molti anni attese una risposta. Alla fine, stanco di aspettare, si lamentò con Melchiades del fallimento della sua iniziativa e lo zingaro diede allora una prova convincente di onestà. Gli restituì i dobloni in cambio della lente e gli lasciò inoltre delle mappe portoghesi e diversi strumenti di navigazione. Scrisse di suo pugno una succinta sintesi degli studi del monaco Hermann che lasciò a sua disposizione perché potesse servirsi dell'astrolabio, della bussola e del sestante. José Arcadio Buendía trascorse i lunghi mesi di pioggia chiuso in uno stanzino che aveva costruito in fondo alla casa perché nessuno turbasse i suoi esperimenti. Fu in quel periodo che prese l'abitudine di parlare da solo, vagando per la casa, senza badare a nessuno, mentre Ursula e i bambini si rompevano la schiena nell'orto per coltivare il banano e la malanga, la manioca e l'igname, la yuyama e la melanzana. Improvvisamente, senza alcun preavviso, la sua febbrile attività si interruppe e fu sostituita da una specie di allucinazione. I bambini avrebbero ricordato per il resto della loro vita l'augusta solennità con la quale il padre si sedette a capo tavola, tremante di febbre, consunto dalla veglia prolungata e dal fermento della sua immaginazione, e rivelò la sua scoperta. La terra è rotonda come un'arancia. Ursula perse la pazienza. Se devi diventare pazzo, diventalo per conto tuo, gridò. Ma non cercare di inculcare ai bambini le tue idee da zingaro. José Arcadio Buendía, impassibile, non si lasciò intimorire dalla disperazione di sua moglie, che in un accesso di collera gli spezzò l'astrolabio per terra. Ne costruì un altro. Riunì nella stanzetta gli uomini del villaggio e dimostrò loro la possibilità di tornare al punto di partenza navigando sempre verso oriente. Tutto il paese era convinto che José Arcadio Buendía avesse perduto il senno quando arrivò Melchiades a mettere le cose a posto. Esaltò pubblicamente l'intelligenza di quell'uomo che per pura speculazione astronomica aveva stabilito una teoria già provata in pratica, anche se sconosciuta fino a quel momento a Macondo. E come prova della sua ammirazione gli fece un regalo che avrebbe esercitato un influsso decisivo nel futuro del villaggio: un laboratorio di alchimia. A quell'epoca Melchiades era invecchiato con una rapidità sorprendente. Nei suoi primi viaggi sembrava avere pressappoco la stessa età di José Arcadio Buendía. Ma mentre questi conservava la sua forza straordinaria che gli permetteva di rovesciare un cavallo afferrandolo solo per le orecchie, lo zingaro sembrava corrotto da una malattia tenace. Secondo quanto lui stesso raccontò a José Arcadio Buendía, la morte lo seguiva dovunque, annusandogli i pantaloni, ma senza decidersi a dargli l'unghiata finale. Era uno scampato da quante piaghe e catastrofi avevano flagellato il genere umano. Era sopravvissuto alla pellagra in Persia, allo scorbuto nell'arcipelago della Malesia, alla lebbra d'Alessandria, al beriberi in Giappone, alla peste bubbonica nel Madagascar, al terremoto di Sicilia e a un naufragio di massa nello stretto di Magellano. Quell'essere prodigioso che diceva di possedere le chiavi di Nostradamus era un uomo lugubre, permeato di un'aura triste, con uno sguardo asiatico che sembrava conoscere l'altro lato delle cose. Portava un cappello grande e nero, come le ali spiegate di un corvo, e un panciotto di velluto patinato dalla borraccina dei secoli. Si lamentava di malanni senili, soffriva per i più insignificanti contrattempi economici e aveva smesso di ridere da parecchio tempo perché lo scorbuto gli aveva strappato i denti. Quel soffocante mezzogiorno in cui rivelò i suoi segreti, José Arcadio Buendía ebbe la certezza che fosse il principio di una grande amicizia. I suoi racconti fantastici sbalordirono i bambini. Aureliano, che allora non aveva più di 5 anni, lo avrebbe ricordato per il resto della sua vita, come lo vide quel pomeriggio, seduto contro il chiarore metallico e riverberante della finestra, mentre illuminava con la sua profonda voce di organo i territori più oscuri della immaginazione. José Arcadio, suo fratello maggiore, avrebbe poi trasmesso quella meravigliosa immagine come un ricordo ereditario a tutta la sua discendenza. Ursula, invece, aveva conservato un cattivo ricordo di quella visita, perché era entrata nella stanza nel momento in cui Melchiades, per distrazione, aveva rotto un flacone di picloruro di mercurio. «È l'odore del demonio», disse la donna. «Niente affatto», corresse Melchiades. È provato che il demonio ha proprietà solforiche e questo non è altro che un po' di solimato. Sempre didattico, fece una sapiente disquisizione sulle proprietà diaboliche del cinabro. Ma Ursula non gli diede retta e invece portò i bambini con sé a pregare. Quell'odore pungente sarebbe rimasto per sempre nella sua memoria, vincolato al ricordo di Melchiades. Il rudimentale laboratorio, senza contare una profusione di crogioli, imbuti, storte, filtri e colatoi, era composto da un rudimentale atanor, una provetta di vetro col collo lungo e stretto, imitazione dell'uovo filosofico, e di un distillatore fabbricato dagli stessi zingari secondo le descrizioni moderne dell'alambicco a tre bracci di Maria Lebrea. Oltre a queste cose, Melchiades lasciò dei campioni dei sette metalli, le formule di Mosè e di Zosimo per la fabbricazione dell'oro e una serie di appunti e disegni sui procedimenti del Gran Magistero che consentivano, a chi sapesse interpretarli, di tentare la fabbricazione della pietra filosofale. Sedotto dalla semplicità delle formule per fabbricare l'oro, José Arcadio Buendía fece la corte a Ursula per parecchie settimane perché gli permettesse di dissotterrare le sue monete coloniali e aumentarle di tante volte quanto era possibile suddividere l'argento vivo. Ursula cedette, come faceva sempre di fronte alla irriducibile caparbietà di suo marito. E così José Arcadio Buendía gettò 30 dobloni in un tegame e li fece fondere insieme a limatura di rame, orpimento, zolfo e piombo. Mise a bollire il tutto a fuoco vivo in una caldaia piena di olio di ricino, finché ottenne uno sciroppo spesso e pestilenziale, molto più simile al caramello volgare che all'oro magnifico. Nel corso di empirici e disperati processi di distillazione, fusa coi sette metalli planetari, lavorata col mercurio ermetico e il vetriolo di Cipro e rimessa a cuocere in strutto di maiale, la preziosa eredità di Ursula fu ridotta a un grumo carbonizzato che non poté essere staccato dal fondo della caldaia. Quando tornarono gli zingari, Ursula aveva predisposto contro di loro tutta la popolazione. Ma la curiosità fu più forte del timore e così tutti andarono nella tenda e per una moneta videro un Melchiades giovanile, rifiorito, senza rughe, con una dentatura nuova e splendente. Coloro che ricordavano le sue gengive devastate dallo scorbuto, le gote flaccide e le labbra appassite, rabbrividirono di paura davanti a quella prova definitiva dei poteri soprannaturali dello zingaro. La paura si trasformò in panico quando Melchiades si tolse i denti intatti incastonati nelle gengive e li mostrò al pubblico per un istante fugace, durante il quale tornò a essere lo stesso uomo decrepito degli anni anteriori. E se li rimise e sorrise di nuovo con piena padronanza della sua restaurata giovinezza. Perfino José Arcadio Buendía ritenne che le conoscenze di Melchiades fossero andate oltre ogni limite sopportabile, ma provò un salutare sollievo quando lo zingaro gli spiegò a quattr'occhi il meccanismo della sua dentiera posticcia. La cosa gli sembrò così semplice e così prodigiosa nello stesso tempo che dal giorno alla notte perse ogni interesse nelle ricerche di alchimia. ebbe una nuova crisi di malumore, rinunciò a mangiare in modo regolare e passava il giorno a bighellonare per la casa. In principio, José Arcadio Buendía era una specie di patriarca giovanile che dava istruzioni per la semina e consigli per l'allevamento di bambini e animali e collaborava con tutti, anche nel lavoro fisico, per il buon andamento della comunità. Dato che la sua casa era stata fin dal primo momento la migliore del villaggio, le altre furono sistemate a sua immagine e somiglianza. C'era un salotto ampio e ben illuminato, una sala da pranzo fatta a terrazza con una fioritura dai colori vivaci, due camere da letto, un patio con un gigantesco castagno, un orto ben coltivato e un cortiletto dove vivevano, in pacifica comunità, i capri, i porci e le galline. Gli unici animali proibiti, non soltanto nella casa, ma anche in tutto il villaggio, erano i galli da combattimento. La laboriosità di Ursula era pari a quella del marito. Attiva, precisa, seria, quella donna, dai nervi saldissimi, che nessuno aveva mai sentito cantare in alcun momento della sua vita, sembrava essere onnipresente dall'alba fino a notte fatta, sempre inseguita dal lieve sussurro delle sue sottane di Olanda. Grazie a lei, i pavimenti di terra battuta, i muri di argilla non intonacati, i rustici mobili di legno che essi stessi avevano costruito erano sempre puliti e le vecchie cassapanche dove si conservava la roba esalavano un tiepido odore di basilico. José Arcadio Buendía, che era l'uomo più intraprendente che si fosse mai visto nel villaggio, aveva disposto in modo tale la posizione delle case che da ognuna si poteva raggiungere il fiume e far rifornimento di acqua con uguale sforzo, e tracciate le strade con tanto buon senso che nessuna casa riceveva più sole delle altre nell'ora della calura. In pochi anni Macondo fu un villaggio più ordinato e laborioso di quanti ne avessero conosciuto fin lì i suoi 300 abitanti. Era veramente un paese felice, dove nessuno aveva più di 30 anni e dove non era morto nessuno. Fin dai primi tempi della fondazione, José Arcadio Buendía aveva costruito trappole e gabbie. In breve riempì di trupiali, canarini, turchinetti e pettirossi non soltanto la sua, ma anche tutte le case del villaggio. Il concerto di tanti uccelli diversi diventò così assordante che Ursula finì per tapparsi le orecchie con la cera per non perdere il senso della realtà. La prima volta che arrivò la tribù di Melchiades, tutti si meravigliarono che avesse potuto trovare quel villaggio perduto nel sopore della palude e gli zingari confessarono di essersi guidati col canto degli uccelli. Quello spirito di iniziativa sociale sparì in poco tempo, travolto dalla febbre della calamita, dai calcoli astronomici, dai sogni di trasmutazione e dalle ansie di conoscere le meraviglie del mondo. Da intraprendente e pulito, José Arcadio Buendía si trasformò in un uomo dall'aspetto ciondolone, trascurato nel vestire, con una barba selvatica che Ursula riusciva a regolare, solo a grande fatica, con un coltello da cucina. Non mancò chi lo considerasse vittima di qualche strano sortilegio. Ma perfino i più convinti della sua pazzia abbandonarono lavoro e famiglia quando egli si buttò in spalla i suoi utensili per disboscare e chiese il concorso di tutti per aprire una via che mettesse Macondo in contatto con le grandi invenzioni. José Arcadio Buendía ignorava completamente la geografia della regione. Sapeva che verso Oriente c'era la Sierra Impenetrabile e al di là della Sierra l'antica città di Riohacha, dove in epoche remote Sir Francis Drake si dava allo sport di cacciare i caimani a cannonate. Nella sua gioventù, lui e i suoi uomini, con donne e bambini e animali e ogni sorta di utensili domestici, avevano attraversato la sierra in cerca di uno sbocco sul mare. E dopo 26 mesi avevano abbandonato l'impresa e fondato un macondo per non dover intraprendere il cammino di ritorno. Era quindi una via che non gli interessava perché poteva condurlo soltanto al passato. Verso sud c'erano i pantani e il vasto universo della palude grande che, secondo la testimonianza degli zingari, non aveva confini. In base ai calcoli di José Arcadio Hendía, l'unica possibilità di contatto con la civiltà era il cammino del nord. Perciò, munì di utensili per disboscare e di armi da caccia gli stessi uomini che lo avevano accompagnato nella fondazione di Macondo. Buttò in uno zaino i suoi strumenti di orientamento e le sue mappe e intraprese la temeraria avventura. Durante i primi giorni non incontrarono seri ostacoli. Scesero lungo la sponda del fiume fino al luogo in cui anni prima avevano trovato l'armatura del guerriero e lì penetrarono nel bosco per un sentiero di aranci silvestri. Alla fine della prima settimana uccisero e arrostirono un cervo, ma si accontentarono di mangiarne la metà e di salare il resto per i prossimi giorni. Con questa precauzione cercavano di rimandare la necessità di continuare a nutrirsi di pappagalli, la cui carne bluastra aveva un aspro odore di muschio. Poi, per più di 10 giorni, non rividero il sole. La terra diventò molle e umida, come cenere vulcanica, e la vegetazione fu sempre più insidiosa e si fecero sempre più lontani i trilli degli uccelli. E il mondo diventò triste, per sempre. Gli uomini della spedizione si sentirono oppressi dai loro ricordi più antichi in quel paradiso di umidità e di silenzio, anteriore al peccato originale, dove gli stivali affondavano in pozze di oli fumanti e i machetes facevano a pezzi gigli sanguinosi e salamandre dorate. Per una settimana, quasi senza parlare, avanzarono come sonnambuli in un universo di afflizione, appena illuminati dal tenue riverbero di insetti luminosi e coi polmoni oppressi da un soffocante odore di sangue. Non potevano ritornare perché il sentiero che andavano aprendo al loro passaggio tornava a chiudersi in poco tempo con una vegetazione nuova che vedevano crescere quasi sotto i loro occhi. «Non importa», diceva José Arcadio Hendía, «l'essenziale è non perdere l'orientamento». Affidandosi sempre alla bussola, continuò a guidare i suoi uomini verso il nord invisibile, finché pervennero a uscire dalla regione incantata. Era una notte fonda, senza stelle, ma l'oscurità era impregnata di un'aria nuova e pulita. Pertenece al barrio, pertenece a los negros, ¿verdad? Sí. Y mezclamos ritmo, el freestyle de ritmo, corta, sencillo. ¿No, DJ? Tengo el control cuando quiero apretar play y cuando quiero apretar stop. Sfiniti, per la lunga traversata, appesero le amache e dormirono profondamente per la prima volta dopo 2 settimane. Quando si svegliarono, già col sole alto, rimasero stupefatti. Davanti a loro, circondato da felci e palme, bianco e polveroso nella silenziosa luce del mattino, c'era un enorme galeone spagnolo. leggermente piegato a tribordo, dalla sua alberatura intatta pendevano i brandelli squallidi della velatura, tra sarti adorne di orchidee. Il ritrovamento del galeone, indizio della vicinanza del mare, frantumò l'impeto di José Arcadio Buendía. Riteneva una burla del suo avverso destino l'aver cercato il mare senza trovarlo, a costo di sacrifici e patimenti incalcolabili, e trovarlo adesso, che non l'aveva cercato, messo lì, sulla loro strada, come un ostacolo inevitabile. Molti anni dopo, il colonnello Aureliano Buendía percorse di nuovo la regione, quando era ormai un regolare tragitto di posta, e l'unica cosa che tromò della nave fu l'ossatura carbonizzata in mezzo a un prato di papaveri. Finalmente convinto che quella storia non era stata un prodotto dell'immaginazione di suo padre, si chiese come mai quel galeone avesse potuto addentrarsi fino a quel punto in terraferma. Ma José Arcadio Buendía non si prospettò quella preoccupazione quando trovò il mare al termine di altri 4 giorni di viaggio a 12 chilometri di distanza dal galeone. I suoi sogni terminarono davanti a quel mare color cenere, schiumoso e sudicio, che non meritava i rischi e i sacrifici della sua avventura. «Diamine!» gridò. «Macondo è circondata dall'acqua da ogni parte!»